Amore baciami, baciami, baciami. E forte stringimi, stringimi, stringimi. Mi piace star racchiuso in te nel tuo tepore. Sento amore che tremi un po', ti batte il cuore. Amore guardami, guardami, guardami. Quegli occhi dicono languidi sì. Troppo innamorato di te. Mi piace star racchiuso in te nel tuo tepore. Sento amore che tremi un po', ti batte il cuore. Amore guardami, guardami, guardami. Quegli occhi dicono languidi sì. Troppo innamorato di te. Baciami, baciami, non farmi più parlare, son troppo innamorato di te.